Non voglio parlar male degli americani, continuò il barone. Pare che siano inesauribilmente generosi, e poiché in questa guerra non c'è stato nessun direttore d'orchestra e tutti sono entrati nella danza a gran distanza di tempo l'uno dall'altro, e loro hanno cominciato quando noi eravamo pressoché finiti, gli americani possono avere un ardore che in noi 4 anni di guerra hanno fatto in tempo a calmare. Già prima della guerra amavano il nostro paese, la nostra arte, pagavano a carissimo prezzo i nostri capolavori. Molti adesso sono a casa loro. Ma proprio quest'arte sradicata, come direbbe Barrè, è l'esatto contrario di quanto costituiva il fascino delizioso della Francia. Il castello spiegava la chiesa, che a sua volta, essendo stata un luogo di pellegrinaggi, spiegava la canzone di gesta. Non ho certo bisogno di esaltare le mie origini e le mie parentele, e d'altronde non è di questo che si tratta. Ma ultimamente, per regolare una questione di interessi, e sebbene fra quella coppia e me ci sia ora un po' di freddo, ho dovuto andare a trovare mia nipote Saint-Lô, che abita a Combray. Combray non era che una piccola cittadina come tante, ma i nostri antenati erano rappresentati come donatori in certe vetrate e in certe altre figuravano le nostre armi. Avevamo la nostra cappella, lì, le nostre tombe. Quella chiesa è stata distrutta dai francesi e dagli inglesi perché serviva da osservatorio ai tedeschi. Tutto, quell'insieme di arte e di storia ancora viva che era la Francia, va in rovina e non è ancora finita. Non cadrò nel ridicolo di paragonare, per ragioni di famiglia, la distruzione della chiesa di Combray a quella della cattedrale di Reims, che era una sorta di miracolo, una cattedrale gotica in cui riviveva naturalmente la purezza della statuaria antica o della cattedrale di Amiens. Non so se il braccio alzato di San Firmino sia stato spezzato. In questo caso, la più alta affermazione della fede e dell'energia è scomparsa da questo mondo. Il suo simbolo, replicai. E io li adoro quanto voi, certi simboli, ma sarebbe assurdo sacrificare al simbolo la realtà che questo rappresenta. Le cattedrali bisogna adorarle fino al momento in cui, per preservarle, dovremmo rinnegare le verità che ci insegnano. Il braccio di San Firmino, alzato in un gesto di comando quasi militare, diceva: ci si spezzi pure se l'onore lo esige. Non sacrificate degli uomini a delle pietre la cui bellezza consiste proprio nell'aver fissato per un attimo qualche verità umana. Capisco cosa volete dire, rispose il signor di Charlieu. E Barré? Che ci ha fatto fare, ahimè, sin troppi pellegrinaggi alla statua di Strasburgo e alla tomba di Déroulède. È stato grazioso e commovente quando ha scritto che persino la cattedrale di Reims ci è meno cara della vita dei nostri fantaccini. Asserzione che rende alquanto ridicola la collera dei nostri giornali contro il generale tedesco che comandava il settore e per il quale la cattedrale di Reims era, come ebbe a dire, meno preziosa della vita di un soldato tedesco. Del resto, ciò che più esaspera e rattrista è che ogni nazione dica la stessa cosa. Le ragioni per le quali le associazioni industriali tedesche dichiarano il possesso di Belfort indispensabile a preservare il loro paese dalle nostre pretese revanchiste sono le stesse che spingono Barré a esigere Magonza per proteggerci contro le velleità di invasione dei crocchi. Perché la restituzione dell'Alsazia-Lorena è sembrata alla Francia un motivo insufficiente per fare la guerra, ma sufficiente per continuarla, per ridichiararla di nuovo ogni anno? Voi avete l'aria di credere che la vittoria sia ormai promessa alla Francia. Io? Non dubitatene, me lo auguro di tutto cuore. Ma insomma, da quando gli alleati, a torto o a ragione, si credono sicuri di vincere? Per quanto mi riguarda, sarei naturalmente felice di questa soluzione, ma quel che vedo è soprattutto una quantità di vittorie sulla carta, di vittorie di Pirro, con un costo di cui nessuno parla. e i crocchi non si credono più sicuri di vincere. Vediamo che la Germania cerca di affrettare la pace e la Francia di prolungare la guerra. La Francia, che è la Francia, giusta, e ha ragione di far sentire le sue parole di giustizia, ma è anche la dolce Francia, e dovrebbe far sentire qualche parola di pietà, non fosse altro che per i propri figli, e perché i fiori che ogni primavera rinasceranno non debbano rallegrare solo le tombe. Siate sincero, amico mio. Voi stesso mi avevate esposto una teoria sulle cose che esistono solo grazie a una creazione perennemente rinnovata. La creazione del mondo non è avvenuta una volta per tutte, mi dicevate. Avviene, deve avvenire ogni giorno. Ebbene, se siete in buona fede, non potete certo escludere la guerra da questa vostra teoria. Il nostro ottimo Norbois può scrivere quanto vuole, tirando fuori uno di quegli accessori retorici che gli piacciono tanto, del tipo Alba della Vittoria e Il generale Inverno. Ora che la guerra ha voluto la guerra, i dadi sono tratti. La verità è che la guerra la si dichiara di nuovo, ogni mattina. Dunque, chi vuole continuarla è non meno colpevole di chi l'ha cominciata, forse di più. Perché il primo, forse, non ne prevedeva tutti gli orrori. Il fatto è, nessuno può assicurarci del contrario, che una guerra così prolungata, quando anche debba avere un esito vittorioso, non è senza pericoli. È difficile parlare di cose che non hanno alcun precedente, delle ripercussioni sull'organismo di un'operazione che si tenta per la prima volta. Generalmente, è vero, le novità che ci mettono in allarme vanno poi nel migliore dei modi. I più saggi fra i repubblicani pensavano che la separazione dalla Chiesa fosse una follia e filata via come imbucare una lettera. Dreyfus è stato riabilitato, Picard ministro della guerra e nessuno ha aperto bocca. Con tutto questo, come si fa a non temere gli effetti di una guerra così logorante, protrattasi per anni e anni? Cosa faranno gli uomini quando torneranno? La fatica li avrà spezzati o sconvolti. Le cose potrebbero mettersi male, se non per la Francia, almeno per il governo, forse anche per la forma di governo. Tempo fa mi avete fatto leggere l'ammirevole Aimé de Coigny di Morat. Mi sorprenderebbe molto che una qualche Aimé de Coigny non si aspettasse dagli sviluppi della guerra intrapresa dalla Repubblica quello che Aimé de Coigny si aspettava nel 1812 dagli sviluppi della guerra intrapresa dall'impero. Se questa nuova Aimé esiste, le sue speranze si realizzeranno? Io non me lo auguro. Per tornare alla guerra vera e propria, il primo a cominciarla è stato l'imperatore Guglielmo? Ne dubito assai. E se è stato lui, cosa ha fatto di diverso, per esempio, da Napoleone? Cosa che io personalmente trovo abominevole, ma non capisco perché debba ispirare tanto orrore ai turi ferari di Napoleone, a quelli che, come il generale Poe, il giorno della dichiarazione di guerra hanno esclamato: «Aspettavo questo giorno da 40 anni, è il giorno più bello della mia vita». Dio sa che nessuno ha protestato più violentemente di me quando la buona società ha dato troppo spazio ai nazionalisti, ai militari, mentre si accusava ogni amico dell'arte di occuparsi di cose funeste per la patria, ogni civiltà non bellicosa di essere deleteria. Era un miracolo se, a paragone di un generale, un autentico uomo di mondo contava ancora qualcosa. C'è mancato poco che una pazza mi presentasse al signor Civeton. Mi direte che erano solo regole mondane, quelle che mi sforzavo di mantenere, ma nonostante la loro apparente frivolezza, esse avrebbero forse impedito tante cose. Ho sempre tenuto in gran conto chi difende la grammatica o la logica. 50 anni dopo ci si rende conto che hanno scongiurato gravi pericoli. Ora, i nostri nazionalisti sono i più germanofobi, i più oltranzisti degli uomini. Ma a 15 anni di distanza la loro filosofia è completamente cambiata. Di fatto, incitano alla continuazione della guerra. Ma è soltanto per sterminare una razza guerriera e per amore della pace. Perché la stessa civiltà guerriera che trovavano tanto bella 15 anni fa, adesso li fa inorridire. Non solo rimproverano alla Prussia di aver accettato il predominio dell'elemento militare, ma pensano che ogni civiltà militare provochi la distruzione di ciò che loro adesso trovano prezioso. Non solo l'arte, ma persino la galanteria. Basta che uno dei loro critici si converta al nazionalismo per diventare automaticamente un amico della pace. Sono convinti, costoro, che in qualsiasi civiltà guerriera la donna avesse un ruolo umiliante e indegno. Nessuno osa replicare che le dame dei cavalieri, nel Medioevo, e la Beatrice di Dante, erano collocate su un trono non meno elevato, forse, di quello delle eroine di Beck. Ma aspetto, uno di questi giorni, che nel dare i posti a tavola mi si preferisca un rivoluzionario russo, o magari uno di quei nostri generali che fanno la guerra per orrore della guerra e per punire un popolo della sua fedeltà a un ideale che loro stessi, 15 anni fa, consideravano il solo davvero tonificante. Il povero zar era tenuto ancora in gran conto qualche mese fa per aver convocato la riunione dell'AIA, ma adesso che si saluta la Russia libera ci si dimentica del titolo in base al quale lo si esaltava. Così gira la ruota del mondo. E pensare che la Germania usa le stesse espressioni della Francia da far quasi pensare che la citi e non si stanca di ripetere che lotta per la sopravvivenza. Quando leggo «lotteremo contro un nemico implacabile e crudele finché non avremo ottenuto una pace che ci garantisca in futuro da ogni aggressione e perché il sangue dei nostri prodi soldati non sia stato versato in vano», oppure «chi non è con noi è contro di noi». Non so se la frase sia dell'imperatore Guglielmo o di Poincaré, giacché con qualche piccola variante l'hanno pronunciata una 20ina di volte sia l'uno che l'altro, sebbene, a dire il vero, si debba ammettere che in questo caso è stato l'imperatore a imitare il presidente della Repubblica. Forse la Francia non ci avrebbe tenuto tanto a prolungare la guerra se fosse rimasta debole, ma soprattutto la Germania non avrebbe avuto tanta fretta di finirla se non avesse smesso d'essere forte. D'essere così forte, perché forte vedrete che lo è ancora. Aveva preso l'abitudine, parlando, di gridare molto forte, per nervosismo, per dare sfogo a impressioni di cui, non avendo mai coltivato un'arte, aveva bisogno di sbarazzarsi, come un aviatore delle sue bombe, fosse anche in aperta campagna, dove le sue parole non raggiungevano nessuno, ma soprattutto in società, dove cascavano altrettanto a casaccio e dove lo si ascoltava comunque, per snobismo, per fiducia. E si può dire, a tal punto il barone tiranneggiava i suoi ascoltatori, per forza se non per timore. Sui boulevard, simili concioni erano anche un segno di disprezzo verso i passanti, per i quali non abbassava la voce più di quanto avrebbe deviato dal suo cammino. Ma lì essa stonava, sbalordiva e soprattutto rendeva intelligibili a più d'uno che si voltava discorsi che avrebbero potuto farci prendere per disfattisti. Lo feci notare il signor di Charlie, riuscendo solo a eccitare la sua ilarità. «Ammettete», disse, «che sarebbe alquanto spassoso. Dopotutto», aggiunse, «non si sa mai, ciascuno di noi rischia ogni sera d'essere nella cronaca nera del giorno dopo. In fin dei conti, perché non potrei essere fucilato nei fossati di Vincennes? È ben successo al mio prozio, il duca d'Enghien. La sete di sangue nobile fa impazzire certa plebaglia, che si dimostra in questo più raffinata dei leoni. Come sapete, questi ultimi non esiterebbero a buttarsi su Madame Verdurin se solo avesse una scorticatura al naso. A quello che, quando ero giovane, avrebbero chiamato la sua canapia». E si mise a ridere a gola spiegata, come se fossimo stati da soli in un salotto. Ogni tanto, vedendo individui piuttosto loschi sprizzar fuori dall'ombra al passaggio del signor di Charlie e conglomerarsi a qualche distanza da lui, mi chiedevo se gli avrei fatto più piacere lasciandolo solo o rimanendogli al fianco. Non diversamente, chi ha incontrato un vecchio che va soggetto a frequenti crisi d'epilessia e intuisce dall'incoerenza del suo passo la probabile imminenza di un attacco, si chiede se la sua compagnia sia desiderata come quella di un sostegno, o temuta invece come quella di un testimone, cui si vorrebbe nascondere la crisi e la cui sola presenza basterà forse a farla precipitare, mentre la calma assoluta riuscirebbe forse a scongiurarla. Ma la possibilità di un evento dal quale non si sa se ritrarsi oppure no è rivelata nel malato dai giri che fa, simili a quelli di un ubriaco. Mentre nel caso del signor di Charlie, a occupare quelle varie posizioni divergenti, segno d'un incidente possibile al cui verificarsi non sapevo con certezza se gli s'augurasse o deprecasse l'ostacolo della mia presenza, non era il barone, la cui marcia era affatto rettilinea, bensì, come in un'ingegnosa messa in scena, tutta una cerchia di figuranti. Credo comunque che preferisse evitare l'incontro, perché mi trascinò in una traversa più buia del boulevard, dove quest'ultimo continuava peraltro a riversare, a meno che non affluissero verso lo stesso boulevard, soldati d'ogni arma e d'ogni nazione, riflusso giovanile compensatore e consolante per il signor di Charlie, di quel deflusso di tutti verso la frontiera, che aveva creato a Parigi un vuoto pneumatico nei primi tempi della mobilitazione. Il signor di Charlie non si stancava di ammirare le brillanti uniformi che ci passavano davanti e che facevano di Parigi una città non meno cosmopolita di un porto, non meno irreale dello sfondo su cui un pittore abbia posto qualche architettura solo per avere il pretesto di raggruppare i costumi più variati e cangianti.